4 mattino. Si capisce che iniziano a prenderci gusto a decidere per noi che cosa dobbiamo, cosa non dobbiamo fare. Questa cosa del divieto di fumo è proprio l'apoteosi della negazione della libertà. Io sarò libero di fumarmi una bella sigaretta alla stazione del pullman in attesa dell'arrivo del mio pullman, no? Buongiorno, si sente parlare di riapertura dei ristoranti, dei bar i primi di dicembre, ma la scuola? Qualcuno dice qualcosa? Qualcuno dice quando pensano di riaprirla? I primi di dicembre, andiamo dopo l'Epifania, i trasporti, stanno pensando come organizzarli? Ah, per me una città che arriva a vietare i barbecue e le sigarette non è tanto smart, è solo molto triste. Oh, fatemi prima rispondere all'ascoltatrice che ci parlava della scuola. No, non ci ha pensato nessuno, non ci ha pensato e non ci sta pensando nessuno. Al di là delle dichiarazioni che sentiamo. Certo, la ministra Azzolina dice costantemente che c'è il massimo impegno per far ripartire la didattica in presenza. Però, da indiscrezioni che arrivano sui giornali, ne scrive il Fatto Quotidiano oggi, pare che De Luca sia intenzionato a proseguire con la chiusura delle scuole, ulteriormente. La regione che l'ha riaperta più tardi, che l'ha chiuse prima e che potrebbe riaprirle ancora più tardi di tutti. Sappiamo che c'è una protesta che monta contro la didattica a distanza, che non può esaurire il compito della scuola, è evidente, con tutto il rispetto per gli insegnanti, che quelli che la stanno facendo nella maniera migliore possibile, perché la scuola, lo sappiamo perfettamente, l'abbiamo detto mille volte, non è solamente la lezione. E poi bisogna vedere come la si fa questa didattica a distanza. E sulla questione del fumo vedo che si è aperto un discreto dibattito. Le regole sono queste regole per migliorare la qualità dell'aria. E ci arriveremo tra un attimo in questa seconda parte di 24 mattino, che è quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:22 minuti e 37 secondi, è venerdì 20 novembre, al microfono sempre Simone Spezia, e direi che possiamo partire con le prime pagine dei giornali, o quantomeno con i titoli principali dei giornali. Allora, parla di tregua di Natale per le chiusure Il Messaggero in apertura, molti giornali invece dedicano l'apertura a questo scontro all'interno del centrodestra. È un Salvini che sfida Forza Italia, secondo il giornale. Il Fatto Quotidiano si concentra sull'altro lato, sull'ipotesi di accordo tra Forza Italia e la maggioranza. Dialogare con questi è il titolo, mentre riporta sotto l'arresto di Tallini, di Forza Italia, presidente del Consiglio regionale della Calabria. Salvini attacca centrodestra in frantumi, è il titolo del Corriere della Sera. Tre deputati di Forza Italia passano nella Lega, tra poco ne parleremo con Antonio Tajani. Di altra spaccatura ci racconta la Stampa, quella dell'Europa, con il recovery fund a rischio. Lo abbiamo affrontato prima, il tema è sempre quello di Ungheria e Polonia. Di recovery fund, su recovery fund è il titolo principale della Repubblica, che parla di strada in salita. Sulle restrizioni si sofferma il Quotidiano Nazionale, che parla di altre due settimane di lockdown. La Verità torna sul commissario Arcuri, perché parla di un affare miliardario di Arcuri sulla questione delle mascherine, gestito dall'uomo dei ministri del PD. Libero torna, ne avevamo parlato ieri, c'era un lungo pezzo di Vittorio Feltri, oggi Libero torna sulla vicenda del cardinale Becciu e ci racconta della donna degli intrighi vaticani, si chiama Genevieve Putignani, sedicente agente segreta. Da maggio minacciò il cardinale Becciu: se non aiuta Monsignor Perlasca finirà male. Chi la mandava? È questo il titolo di Libero, che presenta su questo questo un'inchiesta esclusiva. Il Sole 24 Ore apre con lo stop alle tasse di fine anno per le attività in perdita. Oggi il governo si riunirà per decidere, si ipotizzano appunto sospensioni fiscali per le imprese fino a 50 milioni di fatturato e perdite al 33%. Iniziamo come sempre da qualcosa di diverso e a questo punto però me l'avete chiamato, inizierei quasi quasi proprio da la questione di Milano e questa decisione, questa è arrivata ieri dal Consiglio Comunale appunto di vietare il fumo nei luoghi aperti. E iniziamo, facciamo così, tanto ormai la notizia la sapete, l'avete sentita anche in GR24. Ci sono una serie di divieti che scattano per migliorare la qualità dell'aria di Milano e quindi andiamo direttamente sul commento. Va. E vi metto là questo commento di Mario Aiello che è un po' sul Messaggero, un po' in linea con quello dei nostri ascoltatori. È mai possibile che in piena pandemia, nella regione che ha dato il peggio in questa emergenza a due ondate, con il tasso di morti tra i più alti del mondo e che ieri ha superato la soglia dei 20.000 morti, diventi una priorità il divieto di accendersi una sigaretta all'aria aperta? Da gennaio, così ha deciso il Consiglio Comunale di Milano, ci sarà la proibizione della boccata di nicotina, tranne che in luoghi isolati, dalle fermate dei mezzi pubblici ai parchi, fino ai cimiteri e alle strutture sportive, come per esempio negli stadi sarà proibito fumare nel raggio di 10 metri da altre persone. Non che vada difeso il fumo, ma figuriamoci, però usare il fumo come fumo negli occhi dei cittadini che vorrebbero risposte che non hanno sulle cose importanti. La difesa del morbo, l'organizzazione territoriale della prevenzione della cura, una classe dirigente che sia tale, una regione che funzioni e l'assenza di ogni fumosità gestionale sul Covid. Più che una profilassi, questa è un'ipocrisia, la sigaretta come diversivo, dice Mario Aiello. La lezione errata, in questo commento che parla della lezione errata del divieto di fumo ai cittadini di Milano. Dibattito aperto, come si diceva, su questa decisione del comune che in realtà era attesa, perché era tempo che se ne parlava di questa scelta. Vedremo come andranno le cose. Di certo quello che sappiamo è che inizialmente Beppe Sala voleva norme ancora più rigide, poi il Consiglio Comunale le ha ammorbidite. Restiamo a Milano, restiamo sul Messaggero, perché trovo francamente incredibile che nei giorni scorsi ci sia una parte degli italiani sui social, ma anche qualcuno che ci ha scritto qua a 24 mattino, che nel racconto della vicenda dell'imprenditore Alberto Genovese e dello stupro commesso, forse il solo, forse no, all'interno del suo appartamento, in queste feste che organizzava su quella che chiamava Terrazza Sentimento, ebbene ci sia qualcuno che ha scritto: questa ragazza di 18 anni che è andata alla festa se l'è cercata. Ebbene, per provare a zittire queste persone, forse il racconto che troviamo sul Messaggero nel pezzo di Claudia Guasco può essere utile. Vi può bastare forse la descrizione che arriva dalla dottoressa della Mangiagalli che l'ha curata, sentita dagli inquirenti. Eccola qua. Riguardo alle lesioni che ho riscontrato durante la visita, posso dire che, nonostante lavori al soccorso violenza sessuale e domestica da diverso tempo, non mi era mai capitato di vedere qualcosa di così cruento. Queste sono le parole della dottoressa che l'ha visitata. L'avvocato che dice, che parla della sofferenza nella sofferenza, sentirsi descrivere come una che se l'è cercata. Tutto è cominciato, ve lo ricordo ancora una volta perché magari può dar fastidio, però è così. È cominciato la sera di venerdì e finita alle 4:30 del pomeriggio successivo. Si risveglia lei, si risveglia nel letto, c'è del sangue nel letto, chiede a Genovese dei vestiti da indossare, lui si rifiuta. E lei alla fine riesce a scappare mettendosi addosso quel che trova. Quando in strada Genovese si affaccia alla finestra e le lancia una delle sue scarpe e una banconota da 100 euro. Questo è il quadro, Questo è il quadro della situazione. E ancora c'è qualcuno che ha il coraggio di dire che se l'è cercata. C'è una storia di cronaca che, della quale troviamo conto più ampio forse sul quotidiano nazionale, e che è il secondo caso di questo genere in pochi mesi o simile. Vi ricorderete di Alex Pompa, 18 anni, che il 30 aprile a Collegno ha ucciso il padre a coltellate per difendere la madre dall'aggressione. E visto che parliamo di violenza sulle donne, il ragazzo messo agli arresti domiciliari a casa di un compagno di classe a giugno ha sostenuto la maturità. Ebbene, c'è un caso simile avvenuto sul litorale vicino a Roma, dove un sedicenne, dopo aver assistito all'ennesimo litigio tra i suoi genitori, ha accoltellato il padre per difendere la madre. Il padre, un muratore di origine romena di 37 anni con precedenti, è stato soccorso in gravi condizioni dopo essere stato colpito due volte con un coltello da cucina. A impugnare la lama è stato il figlio di 16 anni, uno studente incensurato, è stato arrestato dai carabinieri. Primo dei tre figli della coppia è intervenuto durante l'ennesima lite tra i suoi genitori e, dopo aver impugnato un coltello da cucina, era stato spinto contro una vetrata, tra l'altro, ha colpito due volte l'addome il padre, che si è accasciato a terra. Il ragazzo a questo punto è indagato ovviamente per omicidio volontario. La madre ha raccontato che la sua famiglia stava vivendo una situazione difficile a causa della separazione e che lei non aveva mai denunciato aggressioni o maltrattamenti subiti dal coniuge. Vedremo come finirà la storia di questo ragazzo. Intanto una pausa. Mattino. In un momento in cui già rinunciamo tante libertà, era il caso di metterci pure il divieto di fumare nei parchi. Allora, io sono un medico e sono fumatore, quindi non voglio moralizzare nessuno, ma questa cosa della libertà è una cagata pazzesca, come direbbe Fantozzi. La vostra è, questa è egoismo mascherato da libertà. Il fumo dovrebbe essere completamente abolito, fuori, dentro, e le sigarette dovrebbero costare 20 euro. Se uno vuole fumare, paga e fuma. Il fumo è un bene di lusso. Vorrei ricordare ai signori fumatori che la loro libertà finisce dove comincia la nostra. È battaglia. Ed è battaglia come nel centrodestra, trovate ricche pagine sui giornali oggi e racconti di tutti i tipi, dai retroscena ai ritratti, con forse quello che dà più spazio e che dedica anche l'editoriale a questo è il Giornale, dove Alessandro Saluzzi firma un editoriale nel quale dice: tre indizi fanno una prova, Matteo Salvini ha dichiarato guerra a Silvio Berlusconi e a Forza Italia, che dopo un lungo periodo di oblio hanno inaspettatamente ripreso il centro della scena politica e sono invocati un po' da tutti come possibili salvatori della patria, visto che l'attuale maggioranza non sembra in grado di reggere da sola l'impatto del virus e delle sue conseguenze economiche. E ricorda maliziosamente Sallusti questa cosa. Dice: è possibile che nella sua testa ci sia la convinzione di conquistare un giorno il 51% dei consensi e andare da solo al governo, ma se così non fosse, così mai sarà. Le regole della politica impongono, per arrivare alla meta, di saper affrontare curve e strettoie, fare e disfare accordi, se necessario, anche con il nemico. Bello? No, direi necessario, come accadde quando per mero interesse personale si alleò con gli acerrimi nemici 5 Stelle pur di andare al governo, tradendo gli impegni e i patti di coalizione e mettendo la sua firma sotto il reddito di cittadinanza e altre amenità del genere. Non faccia il duro e puro, quindi, gli dice Alessandro Sallusti. E dall'altra parte c'è questa possibilità, non dico di ingresso di Forza Italia nella maggioranza, ma certamente un'ipotesi di supporto, no? nei confronti del centro-sinistra. E qua questa ipotesi fa arrabbiare il Fatto Quotidiano, se così possiamo dire. Siamo a pagina 4 e il titolo è: corrotti, evasori fiscali e collusi, le energie migliori di Silvio & Company, dove si mettono tutte le fotine delle persone indagate, condannate, eccetera, eccetera, all'interno di Forza Italia, Dell'Utri, Previdi, Verdini, Formigoni, Matacena, Cuffaro, Scopelliti, eccetera, eccetera. Insomma, il Fatto Quotidiano ci mette un po' dentro tutto per dire, ragazzi, l'accordo con Berlusconi non si deve fare. Se volete due visioni un po' diverse, Il Fatto Quotidiano e Il Giornale. Poi dentro, se volete, anche i ritratti dei protagonisti, a partire da ovviamente la Laura Ravetto, no? Che è quella che colpisce di più, perché era sicuramente una pasdaran berlusconiana che improvvisamente, appunto, passa con la Lega. Cosa ancora dalla giornata di oggi? Come sapete, questa ipotesi di accordo con Forza Italia, della maggioranza con Forza Italia, è prevalentemente sui provvedimenti economici, e c'è un'idea naturalmente che si possa arrivare ad un accordo accogliendo alcune delle proposte del partito di Berlusconi. Ebbene, a proposito dei provvedimenti economici, è in arrivo sono in arrivo nuove misure. Ce le raccontano bene Marco Mobili e Gianni Trovati sul Sole 24 Ore, i quali ci dicono che si compone soprattutto di un altro giro di sospensioni fiscali la nuova tornata di aiuti che il governo sta per mettere in campo per sostenere le imprese e le partite IVA colpite dalle restrizioni anti-Covid. Sospensioni che si allargano a tutta Italia e riguarderanno le imprese fino a 50 milioni di euro di fatturato che abbiano subito perdite di almeno il 33%. Il calcolo del calo di volume d'affari e corrispettivi, secondo meccanismi che si stanno ancora affinando, dovrebbe essere basato sul confronto fra il primo semestre 2020 e lo stesso periodo del 2019 per le tasse in scadenza a novembre, e spostarsi a novembre 2020 rapportato allo stesso mese dell'anno scorso per i versamenti di dicembre. Limiti e criteri sono stati oggetto di discussioni accese, ma a quanto pare piano piano se ne sta arrivando ad una. Nel frattempo proprio a proposito di questioni politiche, c'è tutta la vicenda calabrese che tiene dentro anche un esponente di Forza Italia. Ormai sapete, è stato arrestato ieri Mimmo Tallini, 68 anni, per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio e messo ai domiciliari, accusato di aver favorito nelle attività illecite la cosca Grande Aracri di Cutro, le cui ramificazioni imprenditoriali si sono allungate sino all'Emilia Romagna. Ci sono molte cose. C'è il ritratto realizzato sul Corriere della Sera a pagina 17 da Fulvio Fiano, che ci racconta le svolte di mister Preferenze e il bollo di impresentabile che era arrivato da parte della commissione antimafia. C'è un bel pezzo di Giuseppe Smorto a pagina 5 che ci racconta delle mani delle cosche sull'onorata sanità, l'intreccio indissolubile che nel 2005, lo ricorderete, portò all'omicidio di Fortunio, con la vedova che ora parla e dice aveva denunciato la collusione e gli risposero col piombo. Fatemi, prima di andare alla pausa e poi parlare con Antonio Tajani, proprio esattamente di quello che sta succedendo all'interno di Forza Italia, fatemi andare su un tema che spesso abbiamo toccato senza mai trovare una valida risposta, ed è quello dei numeri. Dei numeri che vengono forniti quotidianamente sull'emergenza Covid. Ebbene, Marzio Bartoloni ci porta su un punto che forse finora avevamo sottovalutato, quello delle terapie intensive. Ossia, ci dice Marzio Bartoloni sul Sole 24 Ore, pagina 7, che sui dati non c'è trasparenza. Perché? Dall'inizio della pandemia il bollettino quotidiano restituisce una fotografia non nitida. Ogni giorno si comunica il saldo dei pazienti in più nelle rianimazioni, che aiuta a fotografare la percentuale di occupazione dei letti, ma non dà il dato puntuale dei flussi di entrata e in uscita dei pazienti. In pratica non si conosce esattamente quante persone ogni giorno entrano nelle rianimazioni, che verosimilmente sono molti di più del saldo comunicato, che tiene conto anche di morti e guariti. Nino Cartabellotta della Fondazione Gimbe dice: questi dati li chiediamo da mesi e non siamo riusciti ad ottenerli. Una pausa. 4 mattino. Ancora sul Covid, o meglio sulle restrizioni dovute al Covid, c'è uno spunto interessante che ci arriva dal Quotidiano Nazionale, visto che ne abbiamo parlato prima, abbiamo fatto sentire il WhatsApp audio della nostra ascoltatrice. Poi su questo anche vedo che vi dividete, c'è qualcuno che dice: guardi, io sono una madre di 4 figli e nonostante questo penso che le scuole debbano rimanere chiuse per contenere il virus. Su questo ragionamento, come sa, ci si divide. Si sa che la parte esterna alle scuole può eventualmente essere un detonatore, però va messo in conto, e questo l'abbiamo sempre detto, un rapporto tra costi sociali anche del lasciare i ragazzi così tanto a casa e i benefici di tener chiuse le scuole. In altri paesi, questo per rispondere a un ascoltatore che dice 1000 paesi hanno chiuso le scuole, in altri paesi vicini a noi, la Spagna, la Francia, la Germania, hanno deciso di fare tutto tranne che chiudere le scuole. Qualcuno ci fa notare ancora che qualcuno mi ha scritto nei giorni scorsi su Twitter dicendomi: guardi che la decisione di portare le scuole tedesche, di non chiudere le scuole tedesche, ha portato 300.000 studenti in questo momento in isolamento. Sì, ma questo vuol dire che oltre 10 milioni di studenti in questo momento stanno andando a scuola, e che direi che non è poco. Comunque, ci racconta il Quotidiano Nazionale a pagina 6 che sta montando la rivolta contro la didattica a distanza. Ci sono proteste in tutta Italia e il TAR aumenta il caos. Il TAR è il riferimento a quello che è successo con la Puglia da una parte e con la Campania dall'altra. Davanti alle scuole armate di PC e telefonini, strumenti indispensabili per la didattica a distanza, ma per chiedere a gran voce di poter tornare in classe. In tutta Italia, da Milano a Padova, da Torino a Firenze fino a Roma, gli studenti delle medie e delle superiori stanno protestando contro la DAD. E poi, al di là di questa protesta, come dicevamo, ci sono i TAR che in Puglia e in Campania hanno preso due decisioni diverse. Scuole aperte ma libera scelta dei genitori in Puglia, sulla base di una ordinanza o di quello che ha scritto il governatore Emiliano, respinti in Campania i ricorsi per la riapertura. Siamo in linea con Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia. Buongiorno Tajani, benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Salvini vi ha dichiarato guerra? Ma non lo so se ha dichiarato guerra. Noi siamo sempre stati coerenti, perché siamo parte fondante del centrodestra. È Berlusconi che ha fondato il centrodestra, è Berlusconi che ha sconfitto la sinistra, ma in un momento di grande difficoltà per il Paese abbiamo fatto una serie di proposte concrete per tutelare il lavoro, le famiglie, le imprese, il mondo delle libere professioni, difendere la salute. Ma questo non significa fare accordi sotto banco con il governo, non significa cercare poltrone o fare inciuci. D'altronde il centrodestra ha votato lo scostamento di bilancio per più di una volta e l'ultimo si è astenuto, quindi non mi pare che ci siano cose particolari novità. Sì. Però questo fatto che vi abbia, per così dire, sottratto 3 parlamentari, non è un bel gesto all'interno di una coalizione che dovrebbe essere unita, Tajani, no? Ma se ci dovrebbe essere un accordo di dare il passaggio da una parte all'altra, ma chi lascia un partito per un altro nella storia politica italiana non ha mai ottenuto dei buoni risultati, non è un modo per fare fortuna politica quello di passare da un partito all'altro. Sono tutti scomparsi dalla politica coloro che hanno cambiato bandiera. Succederà anche ai 3 che sono andati con Salvini, dice lei? Buona fortuna, ma non credo che abbia molte speranze di poter tornare ad essere protagonisti. Però mi faccio andare sull'altro fronte, di chi li ha ricevuti questi deputati, perché è là il tema, perché abbiamo letto le dichiarazioni di Ignazio La Russa e diceva: 2 di questi sono venuti anche da noi. Noi gli abbiamo detto: no ragazzi, qua siamo in una coalizione, non è che sottraiamo parlamentari a Forza Italia. Quindi questa mossa di Salvini è dura, Tajani, no? Sono scelte strane, ma ognuno poi si comporta come vuole. I rapporti fra alleati dovrebbero essere diversi. È finito il centrodestra così come l'abbiamo conosciuto fino adesso? Ah no, assolutamente no. Centrodestra è una coalizione plurale dove ci sono forze politiche diverse, non siamo un partito unico, altrimenti saremmo un partito unico. Noi siamo europeisti, cattolici, liberali, riformisti, garantisti, siamo nella famiglia del Partito Popolare Europeo, d'altronde il fondatore centrodestra è Berlusconi nel nostro paese, è Berlusconi che ha sconfitto sempre la sinistra. Le interlocuzioni sulla manovra sono avviate tra voi e il ministro Gualtieri, tra voi e il governo o no? Abbiamo fatto una serie di proposte concrete per aiutare le famiglie e le imprese, vediamo se il governo le accetterà, ma sono proposte che vengono presentate in Parlamento, le abbiamo pubblicate sui giornali, abbiamo fatto conferenze stampa, così come hanno fatto la Lega e le hanno fatte Fratelli d'Italia. Ripeto, non ci sono accordi sotto banco, trattative sotto banco, ci sono soltanto proposte concrete. Quindi non c'è un collegamento tra questa vostra disponibilità e la norma per salvaguardare Mediaset? Ma assolutamente no, la nostra disponibilità è disponibilità, lo diciamo dall'inizio della vicenda Covid, è disponibilità per tutelare gli italiani, per tutelare la salute e il lavoro degli italiani. E quindi non c'è nessuna intenzione di arrivare, per esempio, ad un appoggio esterno al governo? Assolutamente no, ma Berlusconi l'ha detto in maniera molto chiara, cioè fare delle proposte concrete non significa sostenere il governo, le proposte sono fatte non per il governo, sono fatte per gli italiani. Quando noi diciamo lo Stato deve continuare a garantire i prestiti che le banche faranno le imprese anche dopo il 31 dicembre, lo facciamo per le imprese, non lo facciamo perché senza impresa non c'è lavoro, e non lo facciamo per il governo. Non lo facciamo per la maggioranza, lo facciamo per gli italiani. Quando diciamo servono ospedali Covid ogni 500.000 persone, quando diciamo bisogna attenzione alla terza ondata di coronavirus, bisogna utilizzare il MES per difendere la salute degli italiani, non lo diciamo per fare un favore alla maggioranza o a Conte, lo facciamo perché è nostro dovere tutelare gli interessi degli italiani. In momenti di grandi difficoltà, sì. Viene prima l'interesse della patria e poi quello dei partiti. Lo ricostruirete il rapporto con Salvini? Credo che ci sia da non ci sono rotture, ci sono posizioni diverse. La nostra posizione, direi, è una posizione di grande serietà, di attenzione ai problemi degli italiani. Noi non ci preoccupiamo di fare giochetti di palazzo, di spostare due o tre deputati da una parte all'altra. Noi ci preoccupiamo della salute. Perché sono giochetti di palazzo quelli della Lega, dice lei. Ma questi sono giochetti di palazzo che non meritano neanche grande attenzione, i giornali ne parlano pure troppo. Qua si tratta di trovare soluzioni concrete per difendere gli italiani. Questo è il nostro obiettivo, l'Italia innanzitutto. Poi ci sono delle battaglie politiche e partitiche, ma non siamo in campagna elettorale. Adesso stiamo combattendo una durissima battaglia contro un nemico invisibile che si chiama coronavirus, e noi la vogliamo vincere per tutti gli italiani. Non andiamo a vedere negli ospedali se uno ha la testa di Forza Italia, del Partito Democratico, del 5 Stelle o di un altro partito. Grazie Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, per essere stato con noi. Buona giornata. GR24, ci ritroviamo tra poco con Paolo Mieli e poi alle 8.35 con altri ospiti. A dopo.